programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Settimana convulsa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sempre, no? Siamo in movimento, per carità, non ci si annoia mai da esseri umani, in particolare in Italia, ma anche all'estero, per carità. Però questa settimana in particolare parlavano di un autunno caldo, e anche se stiamo andando piano piano verso l'inverno, è veramente caldo da un punto di vista sociale, inevitabilmente, no? Questo periodo. Ma ne parleremo tra poco. Le notizie, lo sapete, sono moltissime, e questo è il nostro spazio ogni volta a fine della settimana per con calma, relativa calma, perché tanti dicono che ogni tanto corro, con relativa calma, per raccontarci le opinioni, i punti di vista, le angolazioni, insomma, sui tanti fatti della settimana. Ognuno in libertà, con il numero verde sempre a vostra disposizione, il numero verde che è 800 24 00 24, numero verde, quindi, come sempre vi dico, numero ecologico, per evitare di disperdere nell'ambiente le vostre energie, il vostro tempo, i vostri pensieri. Convogliateli tutti qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Tra pochissimo vi presenterò l'opinionista estemporaneo di oggi, ma prima voglio condensarvi, seppur sia possibile, qualche notizia di questi giorni. Naturalmente lo sciopero europeo, questa è una prima mondiale, forse una prima storica a memoria di uomo, di donna, non mi pare di ricordare una cosa del genere, questo sciopero che c'è stato un po' in tutta Europa contro l'austerity, contro l'austerità, questo termine che ritorna, austerità, rigore, che si affiancano strettamente alla crisi, si abbracciano tra di loro, insomma, primo sciopero generale transnazionale, una giornata contro l'austerità, dicevo, contro la disoccupazione, contro la precarietà crescente. Con tutto quello che è successo e le polemiche anche, no? Di questi scontri tra studenti e poliziotti, poi qualcuno dice, ma per lo più sarà così, di infiltrati e poliziotti, poi tutto naturalmente si miscela, c'è una gran confusione e ne hanno fatto le spese gli uni e gli altri, e con anche i sospetti e le polemiche su questi famosi lacrimogeni che sarebbero partiti dal Ministero della Giustizia. Naturalmente è aperta un'indagine su questo, bisognerà capire com'è andata. Poi, tanto per annoiarsi, il Medio Oriente di nuovo riesplode, la tensione tra israeliani e palestinesi, bombardamenti reciproci, ha iniziato Hamas, è anche vero che Israele dall'altra parte dà una risposta un po', si dice, sproporzionata, naturalmente ha tutto il diritto di difendersi, però insomma sembra che qui la possibilità di pace sia sempre una chimera lontanissima. E poi c'è la politica italiana con tutte le sue convulsioni, no? Le primarie del PD che comunque hanno animato il dibattito politico, e poi il PDL che ancora non si capisce esattamente cosa voglia fare, ma c'è la novità dell'Election Day, Election Day in cui si accorperanno a marzo elezioni regionali ed elezioni politiche, non è ancora definitiva la cosa ma è molto probabile. E poi c'è il generale Petraeus, il capo della CIA, che insomma, pensate, il capo del più potente, escluso magari quello israeliano, servizio segreto mondiale, che non è riuscito a tenere segreto invece la sua storia extraconiugale, e qui si è dovuto dimettere. Una storia per certi versi anche divertente, a parte drammatica per lui e per gli Stati Uniti. E poi fatti di cronaca, il maltempo naturalmente, con quello che succede in Italia. Direi per il momento che possiamo fermarci qui, e vi voglio come sempre raccontare cos'è che fra le notizie anche questa settimana ci dice che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Le notizie, lo sapete, sono sempre di tanti tipi, non necessariamente cose di portata mondiale. Anzi, questa però forse lo è in realtà, pensarci bene mentre lo sto dicendo, mi correggo, questo è di portata mondiale, un cambiamento, signore e signori, che lancia nella disperazione milioni di persone, non me personalmente, ma non per snobismo, no, semplicemente non mi è mai capitato di incappare, tranne forse 15 anni fa in due puntate, poi il resto non l'ho mai visto. Insomma, sappiate, signore e signori, che dopo Ridge anche Stephanie lascia Beautiful. Uno pensava, questi moriranno direttamente sul set, si accasceranno, ormai è raggiunta un'età. Invece no, qualcuno comincia dopo, cosa sono, 25 anni, 30 anni, a lasciare il set. Quindi Ridge, quello con la mascella quasi simile alla mia, se n'è andato già da un po', Ron Moss, e anche l'attrice Susan Flannery ha deciso basta, mi sono scocciata, la mia vita è un'altra, e poi forse invecchiatella anche lei, insomma sappiatelo. Quindi questa è la novità che ci dice che non tutto prosegue sempre allo stesso modo, non ci sono più effettivamente le mezze stagioni. E adesso, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, nel ricordarvi ancora una volta il numero verde 800 24 00 24 per le vostre libere opinioni, vi presento l'opinionista estemporaneo di oggi. Beppe Severgnini. Beppe? Pronto, Beppe? È successo qualcosa, Beppe? Mi aveva avvisata che oggi aveva delle difficoltà, ma d'altronde aveva preso un chiaro accordo, è vero Beppe? E quindi forse è possibile che la rullata l'abbia stonato. Adesso cerchiamo di capire con Nadia Zammitti ai telefoni. Vi ricordo, le vostre centinaia di telefonate arrivano a Nadia mentre c'è Filippo Oreggi alla parte tecnica. E adesso, mentre cerchiamo di recuperare il nostro Beppe Severgnini, vi ricordo, tra l'altro, tra le primissime notizie di oggi, anzi questa è prima sia nella pagina online del Corriere che di Repubblica, la Cancellieri, la ministra dell'Interno, è stata contestata dagli studenti a Rimini alla giornata della legalità. Questo vi dice appunto qual è la situazione di tensione sociale che bisogna guardare con molta molta attenzione, soprattutto la politica che si sta accapigliando sull'election day, sulle, mi raccomando, sappia che cosa sta succedendo. Ci sono delle difficoltà ancora con Beppe Severgnini, e allora vado subito a interessarmi, prima di approfondire con lui appunto le varie notizie, della pagina Facebook Non ci sono più le mezze stagioni. Fra le i vari fatti di questi giorni è interessante per esempio questa campagna che ha lanciato Umberto Veronesi, sapete, scienziato di fama internazionale, per eliminare l'ergastolo, abolirlo definitivamente. Dice: l'ergastolo è una pena antiscientifica e anticostituzionale. Ha lanciato questo manifesto contro l'ergastolo nel corso proprio di una conferenza internazionale due giorni fa, che si chiama Science for Peace, la scienza per la pace, ideata dalla sua fondazione. Lui dice che appunto l'ergastolo è una pena antiscientifica perché è dimostrato, dice Veronesi, che il nostro cervello, come altri organi del nostro corpo, può rinnovarsi, e il cervello che abbiamo oggi non è lo stesso di vent'anni fa, e quindi dice può modificarsi, perché tenere in carcere a vita una persona. Alcuni commenti che sono arrivati su questo tema li approfondiremo dopo. Sono arrivati diversi commenti sulla pagina Facebook Non ci sono più le mezze stagioni, sulla quale potete andare se vi trovate davanti a un computer. Forse il nostro Beppe c'è? Ma c'ero anche prima, Roberta, ti sentivo benissimo. Che è successo? Mi hanno messo i tappi nelle orecchie, come mai? No, evidentemente c'è stato un problema di linea, caro Beppe. Ma io volevo chiederti, Beppe, naturalmente non ha bisogno di presentazioni, giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, autore di numerosi libri, conduce dal 98 il Forum Italians sul Corriere della Sera, e proprio per questo, siccome tu hai scritto l'ultimo saggio ai italiani di domani, 8 porte sul futuro, per Rizzoli, che è un libro dedicato ai giovani, io ti voglio sottoporre un caso di un giovane che non so se qualcuno vuole rottamare, è stato molto giovane, diciamo, in passato, compie 50 anni. Tu immagini chi sia Beppe, questo giovane ormai cinquantenne? Beh, a 50 anni è vietato dalla Costituzione chiamarsi giovane, però sono interessato di sapere chi è, certo. Allora te lo dico, attenzione, non manderò il rullo di tamburi, ma è, attenzione, è Ciccio Bello. Tu lo sai che Ciccio Bello compie 50 anni? Confesso che la cosa non è al centro delle mie preoccupazioni al momento. Tu non hai avuto Ciccio Bello tra le tue braccia? No, per fortuna, e forse la mia salute psicologica dipende anche da questo fatto, no. Perché l'unico Ciccio che conoscevo era un mio amico di Napoli e l'aiutante di nonna Papera. Non so se questo mi fa avere almeno 18 all'esame, ma Ciccio Bello so chi è. Vabbè, devo dire che nella mia formazione è assente. Tra l'altro, Roberta, aggiungo una cosa. Sì. Che io non ho mai guardato di fatto neppure Beautiful, però ho visto Briatore da Santoro per tutta la sera. E ti è sembrato non so Beautiful se quello? Compensa. Io direi che può compensare effettivamente, lo stile è un po' quello, poi ognuno può vedere dal proprio punto di vista se questo può essere divertente o meno, veritiero o meno, però devo dire che può compensarti, quindi per ora è la sufficienza, già siamo all'inizio, la sufficienza c'è, caro Beppe Severgnini. E dicevo che Ciccio Bello è in mostra, addirittura c'è la Rinascente a Milano che ha dedicato tutta una vetrina a questi 50 anni. È nato nel 1962, tu eri un po' più grandino, ecco perché non l'hai avuto tra le braccia, e sono esposti tutti quelli storici: Ciccio Bello Cammina, Gattona, Happy Pony, Fiocco di Neve, Ciccio Bello Bua, che è quello che mi fa più compassione, ce n'è sempre una, questo insomma. Comunque, ma una domanda, scusa, sì. A questo punto mi ha incuriosito, sì, ma questo non è un bambolotto per bambine, femmine? Io non faccio distinzione, l'hanno avuto tra le braccia anche i maschietti e mi sembra anche giusto. La mia generazione, non è che fossimo una generazione di rudi cowboy, però io, un bambino degli anni 60 che giocava con Ciccio Bello, insomma, avrebbe destato i suoi sospetti in oratorio, sarebbe stata dura. Uno può fare tutto, Certo. Però... Anzi, c'è un... Guarda, leggevo proprio questa settimana che c'è un asilo in Svezia dove hanno deciso di non usare neanche i pronomi con le bambine e con i bambini, lui, lei, ma di usare questo N, se non sbaglio, H-E-N, che è un neutro, e si chiamano così anche i giochi, anche in Francia, pochi giorni fa questa guarda, notizia. Guarda Roberta, vengo dagli Stati Uniti, ero là per le lezioni e quindi e poi questo ho passato un mese in treno e sai che è un paese che frequento molto, sono abituato quando sono là a dire sempre quando parli e aggiungere, non so, him or her, cioè lui o lei, e ogni volta to him or to her, cioè accetti i due pronomi, eccetera. Però, diciamo la verità, un asilo in cui hanno eliminato il maschile e il femminile per il neutro, sì, forse hanno un po' secondo esagerato, me andrebbe questo. Psicanalizzata sì. La direttrice di quell'asilo, perché i bambini stanno benissimo. Però un meritevole tentativo, anche se un po' esagerato, di educare alla parità. No, no, contesto l'aggettivo, meritevole è un tubo, Roberta, no, non è meritevole, è, dalle mie parti si dice avere buon tempo. Però in quello francese invece fanno giocare, come impari giusto, ma penso anche in tanti italiani, senza che se ne parli, bambine e bambini con i giochi che vogliono, senza... già inquadrare da piccoli. Ma le bambine hanno sempre giocato alla lotta e menavano più di noi, io in particolare, no, calcio, che ho menati parecchio, questo sono d'accordo. Senti Beppe, a proposito di giovani, dicevo, questo tuo libro Italiani di domani, 8 porte sul futuro, testa, tenerezza, terra, talento, tolleranza, tempismo, sono tutte queste porte che appunto si possono aprire per i giovani di domani. Mi piace che tu inizi con questa frase di Fossati, Ivano Fossati, che è il mio cantautore preferito, tra l'altro ci conosciamo, e dice: la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato. Non so se però i giovani sono tanto convinti che sia proprio una fortuna vivere in questo momento, a proposito delle polemiche, degli scontri di questi giorni, di quello che insomma hanno manifestato su questo grandissimo disagio a livello internazionale. Non esiste una categoria giovani bravi, anziani cattivi. Io penso che questa generazione non abbia colpe, cioè i pasticci italiani non li hanno creati i 22enni, ma tra i 22enni c'è una grande maggioranza di ragazzi giustamente preoccupati, ma che hanno la mia solidarietà e la mia ammirazione, perché io sono convinto che sia una generazione che farà molto bene, poi magari ti spiego perché. Certo che se qualcuno di loro, e ci sono stati, prende il casco e la mazza da baseball e va in piazza, cioè, gli imbecilli ci sono in ogni categoria, a parte il fatto che vorrei andare a vedere la carta d'identità. Secondo me gli ispiratori, ho letto almeno di queste cose, sono signori che avevano un'età più vicina alla mia che alla loro, che hanno sempre quest'idea sballata della rivoluzione, e li vediamo una volta per la TAV, una volta eccetera. C'è gente che, per cui l'adrenalina politica viene dal fare a botte con la polizia, e io sono con Pasolini, che i poliziotti sono dei poveri ragazzi che poi abbiano... L'ha citato anche Grillo questa settimana, Pasolini, per dire però ai poliziotti sfilate insieme ai ragazzi. Io preferisco citare Pasolini che Grillo, vabbè. Che era dalla parte dei poliziotti perché è proletari, insomma, diceva. In ogni modo, per tornare alla tua domanda, io il tempo sbandato, vedi, forse lo posso dire, Fossati era molto contento, mi ha dato una bellissima telefonata di questa epigrafe del libro, ma è così. Un altro grande scrittore che si chiama Alberto Savinio, che era il fratello di De Chirico, ha detto anni fa, diceva: bisogna amare l'amaro nostro tempo. Sembra una frase, ma è così. Che frega le generazioni, Roberta? Che frega gli imperi, le società, le radio, i giornali, le aziende, le coppie, le famiglie? Non sono mai le difficoltà o le sfide. È la mollezza, il vizio, la sciatteria, la sufficienza, l'arroganza. Allora, questi ragazzi stanno passando degli anni durissimi, perché escono dall'università e si trovano di fronte al muro qualche volta. Oppure peggio ancora, quella specie di gommina misteriosa, di questa specie di palude italiana. Questi ragazzi alla fine usciranno più forti. Questa, qua mi fermo, non è una giustificazione per noi, spero sia una piccola consolazione per loro. È un auspicio da parte tua. Salvatore da Caserta. Salve, buongiorno. Ciao Salvatore, buongiorno. Salve. Io volevo intervenire innanzitutto auguri per la trasmissione, perché è una trasmissione che mi piace molto e la seguo da molto tempo, diciamo, la seguo tantissimo. Benissimo, questo è già meritevole questo, sì. Auguri di nuovo. Volevo intervenire per quanto riguarda le forze dell'ordine con la manifestazione, i ragazzi, queste cose qua. Io sono contrario, sono stato sempre contrario a queste cose, non le manifestazioni, gli scioperi, solo, va bene tutto, però se uno parte con dei manganelli, delle cose, mi riferisco agli studenti e tutti quei testo, per fare queste cose, certo che la polizia, non so, loro vanno, escono la mattina per lavorare, però se questi qua, se uno, non so, queste cose non si potrebbero evitare, non fare, perché già si sa che vanno incontro, come il G7, queste cose qua, si sa già che cosa si va incontro. Ti fidai soprattutto al G8, beh, guarda, in realtà... No, diciamo... al fatto di Genova, queste cose qua, diciamo, sì. Ecco. Però Salvatore, adesso non è che per forza ci deve essere, è vero che più delle volte capita, vorrei però che si potesse fare una distinzione tra... possibili abusi a volte da parte della polizia e anche infiltrati, che spesso gli autonomi, i giovani cinquantenni, come diceva anche Beppe Sevignini, che spesso sono gli ispiratori che si buttano in mezzo, quelli che hanno voglia di fare i picchiatori. Che dici, Beppe? Visto che dico che la parola infiltrati, no, mi dispiace Roberta, è una parola riduttiva, perché qui stiamo parlando di moltissime persone con manganelli, caschi, che si presentano. Però tu così. Dici che hanno a che fare con questi studenti sedicenni, diciassettenni, quindicenni? Io non credo che siano tutti. No, hanno a che fare, ma sono lì anche loro, quindi siccome la grande loro, maggioranza, certo, dei ragazzi sono per bene, sono bravi e sono spaventati. Allora, purtroppo, lo dico con dispiacere, organizzare queste manifestazioni di piazza diventa la scusa non per farli infiltrare, ma sono lì dall'inizio, escono di casa col manganello e col casco, basta vedere i numeri. No, certo, una parte di loro sì, ma non credo che questi siano allora i ragazzi. Allora si evita di organizzare queste cose, perché tutte le volte finisce allo stesso modo, basta, abbiamo dato. I ragazzi sono pieni di fantasia e di intelligenza, si inventa qualcos'altro. Ecco, allora vado al tuo libro, a pagina 49, Beppe, dove il capitoletto si intitola Non deprimetevi, e dici: studenti in piazza in Italia, studenti per strada a Parigi, studenti in rivolta a Londra, una coincidenza, già avevi un po' presagito, ma in realtà sono cicli e ricicli, cose che ritornano molto spesso. Dice: non credo una coincidenza, una spiegazione, care reduci perpetui del 68, potrebbe essere: sono tornati i giorni dell'immaginazione e di potere, peccato non abbia saputo immaginare quanto si sarebbero imbolsiti i suoi alfieri. Un'altra, meno romantica, più semplice e preoccupante come tesi, è: i ragazzi europei non si ribellano tanto a una legge o una riforma, si ribellano all'idea che il mondo adulto pensi a loro solo quando si tratta di risparmiare. Che è vero. Questo non c'è dubbio. Io penso che uno degli errori, io ho sostenuto, ritengo che questo, il governo Monti in Italia, penso sia una forma di pronto soccorso dopo 18 anni di spettacolo di illusionismo che abbiamo attraversato, e quindi va benissimo. Però una cosa che un po' rimprovero è che nei momenti difficili le aziende devono investire, e così anche le società e gli stati. È il momento di investire nella scuola, nella ricerca, nell'istruzione, lo fanno in Svezia, lo fanno in Germania, proprio perché siamo in difficoltà. Perché è lì, chi smette di investire si gioca il futuro. Questa è la cosa, e un pochino sono rimasto deluso, perché non mi sembra proprio al centro dell'attenzione, al di là di tante belle dichiarazioni. Questo un pochino mi spiace. Dico una cosa ancora, prima, sì, che mi passi di mente. Con mia grande sorpresa, perché non immaginavo una reazione così, non è stato, il libro è Roberta, non c'è paternalismo, giuro, non c'è tanta autobiografia, anzi ce n'è molto poca, perché i cinquantenni che danno consigli dicendo ai miei tempi, e chi se ne frega dei tuoi tempi, erano diversi, sono i nostri. Allora, il libro sta andando non bene, benissimo, sono proprio contenta benissimo, per te. E oggi alle ore 17, chi ci ascolta è in zona Milano, in piazza della Scala all'interno di Book City. Allora, alle ore 17, con una mia collega giovane, che ha un'età che comincia per 2, perché ha 29 anni, Chiara Maffioletti del Corriere, facciamo un po' questi discorsi. È aperto, è pubblico, Piazza della Scala 6, Milano, oggi alle 17. Il posto dove lo facciamo è bellissimo, in mezzo ai quadri del Novecento. Quindi se anche non ve ne frega niente di quello che dico, io vi assicuro che il posto vale la pena. Va bene, forse anche solo per vedere l'ambientazione. E adesso vi dico, a proposito di ambientazione, la cambiamo proprio temporaneamente, perché abbiamo il collegamento, come voi sapete, sempre con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Puntando quassù da Marte il telescopio, come sempre lo sapete, sul globo terracqueo, si è palesata in territorio italico una sorprendente verità. Quando lo Stato si impigrisce, quando coloro che dovrebbero svolgere approfondite indagini latitano, quando le istituzioni preposte se ne dimenticano a risolvere i casi apparentemente più intricati, in Italia ci pensa come fosse l'ultimo supereroe a cui affidarsi. Quando tutto sembra perduto, ci pensa, dicevo, chi l'ha visto. No, non è un avamposto delle forze dell'ordine, una base inviolabile dei servizi segreti, no. Niente poco di meno che un programma TV. Dopo i casi di Elisa Claps e di Enrico De Pedis, boss della banda della Magliana sepolto come un vescovo nella Basilica di Santa Apollinare e vari altri, l'ultimo caso è quello delle due donne scomparse nel nulla. Nel nulla, secondo chi avrebbe dovuto svolgere le indagini, scomparse nel 2004. Che invece erano lì, sotto il naso di chi avrebbe dovuto indagare, infilate, ormai scheletrite, naturalmente, in un intercapedine della loro casa. Insomma, rincuora sapere che là dove le istituzioni stanno sedute sul divano davanti alla TV, è la TV che si alza dal divano e sostituisce le istituzioni. Un po' come la frase su Maometto e la montagna, anche se non si ricorda mai chi è che va alla montagna, chi è che va a Maometto, eccetera, eccetera. Ma è pur vero che a fronte di una certa inerzia, a volte le iniziative arrivano dalle strutture più impensabili dello Stato, come per esempio dalle finestre del Ministero della Giustizia. Paiono partite da lì ultimamente delle iniziative un po' fumogene, dice qualcuno, che essendo fumogene hanno creato un po' di confusione, ecco. Ma è chiaro che i problemi sono anche altri. Prendete un povero politico, un povero consigliere regionale, nonché tesoriere dell'Italia dei Valori, un certo Maruccio, che vien voglia di vezzeggiarlo già dal cognome Maruccio. Maruccio, dopo i Batman fioriti e gli altri eroi della banda Bassotti che soffrivano di dipendenza da ostriche, da SUV, da case faraoniche e vacanze da sogno, lui soffriva di dipendenza da videopoker. E del resto cosa pensavate, voi, egoisticamente, di averceli solo voi, gente comune, i problemi? L'unico problema, parlando appunto di problemi, è che i soldi che si giocava erano quelli della comunità italica, cioè i soldi dei cittadini. Il tesoriere Maruccio così giocava i soldi pubblici, che poi finalmente avete capito perché quelli che custodiscono spesso nelle loro tasche i soldi dei partiti si chiamano tesorieri, perché effettivamente di veri e propri tesori milionari si tratta. Pensate che due turisti olandesi in questi giorni, che sono saliti sull'Etna, hanno preso da lì alcune pietre vulcaniche e se le sono portate in Olanda come souvenir. Poi però, presi dal rimorso, li hanno rispediti in Sicilia tramite posta aerea con una lettera di accompagnamento. Perché succede agli olandesi che prendono le pietre e non ai politici italici che si imboscano i soldi pubblici? Combattere la propria dipendenza, dipendenza, dipendenza, riuscire in qualche modo a fare senza, fare senza, fare senza, capire dove sta la differenza fra il vizio e l'esigenza, è una questione di coerenza, di coerenza. Torniamo subito con i piedi per terra, andiamo da Cristina da Milano, 800 24 00 24. Andrei a seguire Severgnini oggi, Cristina, alle 17, Piazza della Scala? Mi piacerebbe, avevo un altro impegno, però cercherò di farci una cappatina perché è curioso. Molto mi bene. Incuriosisci. Cristina, quindi la tua notizia della settimana qual è? La mia notizia è, sono stata veramente sorpresa dalle immagini che ho visto delle manifestazioni. Io sono la mamma di una ragazza adolescente che quest'anno per la prima volta mi ha chiesto mamma, voglio andare in manifestazione perché ne abbiamo parlato a scuola e non ritengo giusto quello che tutti i tagli che stanno attuando sulla scuola. E siccome il primo moto è stato sicuramente di preoccupazione, perché gli ho detto anch'io ai miei tempi andavo a manifestare e ho visto, insomma, ci sono dei rischi, no? Quindi gli ho detto, se tu credi in quello che di cui avete discusso, vai in manifestazione, niente maschere, niente trucchi, niente cappucci. E quindi quello che vorrei fare, una sorta di appello tramite Radio 24, no? Che per le future manifestazioni, fare una sorta di pubblicità progresso, degli appelli ai ragazzi a non temere di mostrare il loro volto se hanno dei diritti in cui credono. credo, no? Cristina, comunque tua figlia è tornata per fortuna sana e salva. Che ti ha raccontato di questa manifestazione? Mi ha raccontato che prima di entrare in manifestazione c'era qualcuno che voleva truccargli il viso e si è limitato a una sorta di piccola striscia indiana, però ha detto: noi eravamo con un gruppo e anche con alcuni professori e quindi sono stati abbastanza compatti con i loro visi. Tranquillamente. Meno male. Beppe, grazie Cristina, così ci ha portato anche una testimonianza di una ragazzina che è andata a manifestare. Sentito Beppe, nel senso, molti, credo la maggior parte, no? Hanno questo spirito sano, insomma. Non c'è dubbio, Roberta, e vale anche per Cristina, che saluto. A proposito, se viene oggi appunto alle 5 in Piazza della Scala con la figliola, regalo libro alla figliola, me la presente, glielo regalo io, così, e provo a dirgli anche quello che adesso dico per radio, ma lo voglio dire a sua figlia, che il problema, che è un problema che io conoscevo perché succedeva anche ai nostri tempi e non è cambiata, è che i bravi ragazzi che vanno a protestare finiscono ostaggi dei pochi cattivi ragazzi che ci sono, ma una minoranza malintenzionata procura danni enormi. Però ti voglio dire questo, Beppe. Perdonami, però se i ragazzi non vanno a manifestare, non si rendono visibili nei momenti di difficoltà in cui si sentono appunto dimenticati, in alternativa secondo te cosa possono fare? A parte quello che scrivi nel libro, però la rabbia porta anche ad altro. Dividiamo le cose. Ecco. Il libro parla di riforme private, sì. Noi stiamo parlando di riforme pubbliche, di quello di cui parli a Radio 24, io scrivo tutte le settimane sul Corriere della Sera, eccetera. Quello è su una... Il libro parla di riforme private, cioè cosa un ragazzo può provare a fare da solo, uscendo dall'università, davanti al mondo del lavoro. Iniziativa privata. Quindi i miei otto consigli di usare la testa, di capire il talento. Quindi il libro parla di aiutati che il ciel ti aiuta e io provo a dare qualche idea. Vabbè. Altra cosa. Invece questo stiamo parlando di un'altra faccenda. Semplicemente la manifestazione pubblica in cui le centinaia di ragazzi col casco e il manganello non sono un'eccezione, Roberta, sono diventati un problema insuperabile, quindi bisogna inventarsi altro. Quindi meglio non manifestare, stai dicendo. Ma non c'è solo la piazza, ci sono altre cose, fate tipo il sit-in, sedetevi, inventatevi qualcosa, dipingetevi la faccia di rosa e andate a dire le ragazze vadano davanti al ministero e ci siamo anche noi, o qualunque cosa. L'idea di queste manifestazioni sono vecchie, sono idee vecchie e prima o poi, occhio, perché la mia generazione l'ha conosciuto, qualcuno deciderà che non basta un manganello e ti porta la pistola e allora ricominciano le tragedie. Non è una giustificazione questa, me ne rendo conto, ma però non è più un'eccezione. Questi aspettano solo l'occasione fornita dai ragazzi bravi e per bene per andare là a far casino. C'è gente a cui piace far casino, è inutile che ci pigliamo in giro. Quindi un suggerimento da Beppe Severgnini: cercate di stimolare la vostra fantasia, la vostra immaginazione. Sì, non fatevi fregare, perché ci sono persone che sono lì apposta per stare il vostro entusiasmo, la vostra buona fede e vi stanno fregando. E abbiamo visto l'altro giorno, vi stanno fregando. C'è Giuseppe da Roma che aspetta da un po' al telefono. Giuseppe. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Posso parlare? Certamente, ne hai facoltà. Dunque, allora io parlo come segretario generale dell'Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà, che è un'associazione che ha oltre 7.000 iscritti, tra cui moltissimi appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio. Molti di questi fanno anche servizio di ordine pubblico. Tu sei in servizio, Giuseppe? Io sono stato in servizio fino al 2000, perché questa associazione è fatta da due componenti, se no sarebbe un'associazione professionale, sarebbe vietata dalla legge. Una componente di cittadini in servizio, una componente di finanzieri in servizio e una componente di cittadini comuni. Io faccio parte della categoria cittadini comuni, anche se chiaramente conosco molto bene le tematiche, le problematiche del personale. Sì. Sì. Volevo dire che non condivido, naturalmente con tutta la simpatia del caso, il punto di vista di Beppe Severgnini, perché secondo me la democrazia si fa in piazza. Allora, io credo che se non ci fosse stata l'agorà ateniese forse non ci avremmo neanche la democrazia noi qui adesso ai tempi nostri, quindi i giovani devono andare in piazza, devono assolutamente isolare le persone che non si comportano correttamente, devono poi andarsene quando vedono situazioni di questo genere, cambiare percorso. È cresciuta, la seconda cosa che voglio dire, è cresciuta però moltissimo la professionalità delle forze dell'ordine dal 2001, quindi dal G8 in poi. Cioè, le forze dell'ordine sono cresciute molto, noi anche le nostre associazioni, i sindacati di polizia hanno fatto le organizzazioni civiche che hanno, hanno fatto un grosso lavoro. Basti vedere ad esempio quell'episodio del finanziere con la pistola aggredito da 8-10 scalmanati qualche circa un anno fa, che ha protetto la pistola e i colleghi sono andati ad aiutarlo, l'hanno liberato e non ha fatto comunque trovo originale Giuseppe, trovo originale da parte tua che fai parte di un'associazione di questo tipo, no? Che quindi fa capo a un corpo delle forze dell'ordine, siamo autonomi dalla Guardia di Finanza, siamo un'organizzazione civica, ci tengo a dirlo chiaramente, sì comunque ne fanno parte, no? Anche finanziere, hai detto che è un'associazione finanziaria. Ti ricorda ad esempio quel caso di quel notav che è andato a cercare di provocare quel carabiniere chiamando pecorella e quant'altro? Sì, anche se è lì stato la cosa professionalissimo è quel carabinieri. I livelli sono cresciuti enormemente. Cosa voglio dire però? Attenzione, in conclusione, ci sono sì. ancora degli scalmanati all'interno delle forze dell'ordine che gli stessi, gran parte degli stessi poliziotti, carabinieri e finanzieri cercano di emarginare, di controllare. Anche nei filmati si vedono altri colleghi quando qualcuno picchia. Ho capito Giuseppe, quindi dici che cercano di allontanarli. Noi siamo assolutamente favorevoli ai codici alfanumerici da mettere sui caschi, in modo tale che anche le persone di questo genere, che ci sono ancora purtroppo, vengano totalmente emarginate e stiano molto attenti perché commettono reati. Siamo totalmente contrari all'invito di Grillo che ha fatto sul suo sito Soldato Blu, a dire che invita gli agenti delle forze di polizia a togliersi il casco, a marciare insieme ai manifestanti. Sì, era una visione un po' romantica. Ma quello è un reato. Attenzione, se qualcuno facesse una cosa ci preoccupiamo molto perché molti agenti delle forze di polizia seguono molto Grillo perché sembra un'alternativa e forse lui ha detto che le forze dell'ordine votano per lui, infatti Giuseppe è chiarissimo il tuo pensiero, ti ringrazio. Vorrei sentire Alfredo da Napoli, sempre al numero verde 800 24 0024. Alfredo, sì, io mi sentite? Sì, mi riallaccio a quello che diceva questa persona a proposito dei codici sui caschi della polizia, che già in altri paesi si vede che funziona, ma in Italia ormai sono anni, i primi a parlarne furono i radicali, ma qua sembra che sia impossibile, ci dobbiamo affidare al collega che deve guardare l'altro collega affinché non spacchi la testa in un momento di ira. Vabbè, queste sono. Poi volevo rispondere a Severgnini, che anche a me piacerebbe andare in una manifestazione, insomma, magari al Quirinale, fermarmi e dire sono un po' dispiaciuto e poi girarmi e andare a guardare i quadri, perché chiaramente con uno stipendio tranquillo, insomma, anche a me, io sarei il primo a venire a Milano a guardare questi quadri. Il problema è che parte forse quadri. Abbiamo altri problemi, insomma. Cioè, Alfredo, vuoi dire il disagio e la rabbia sono troppi per fare delle manifestazioni che non siano quelle di piazza, questo stai dicendo? Penso proprio di sì, che il problema è che, come si dice a Napoli, qua ci bruciano la fronte. Severgnini è contento, insomma, fa i viaggi, beato lui, e può dire sono dispiaciuto, ma anche io sarei dispiaciuto avendo tutta una vita, insomma, a posto. Purtroppo io scenderei, io non ho l'età, ma scenderei con questi ragazzi e farei anche di peggio. Vabbè, no, penso di peggio. Di essere stato chiaro. Sei stato chiarissimo, grazie Alfredo. Io direi, Beppe Severgnini, rispondi, poi andiamo sulla politica che mi sta particolarmente a cuore, visto che siamo lì anche per le primarie del PD, poi c'è questo Election Day, il PDL che bisogna capire bene cosa fa. Dai sinteticamente una risposta, Beppe? I codici per riconoscerli, evidentemente vuol dire praticamente dei numeri, dei numeri con delle lettere per cui un poliziotto per essere rintracciabile, quindi questo è favorevolissimo, ovvio. Però questa fantasia che ci siano quattro scalmanati e un oceano di tranquilli, non è così. Ci sono già presenti in piazza dal mattino con i manganelli. E all'ultimo ascoltatore, è vero, io sono molto fortunato e lo so benissimo, però le assicuro, con le premesse che lei ha fatto, questo paese, partendo da quelle premesse, farei anche di peggio. Si è ritrovato con i morti in piazza, attenzione, ma veramente attenzione. Senti, prima di fare la prossima pausa e poi di andare anche un po' sulla politica, ti volevo chiedere molto sinteticamente, Beppe, dicevo all'inizio, quando forse mi sentivi, ma non sapevo, con il collegamento telefonico un po' difettoso, questa campagna lanciata da Umberto Veronesi sull'ergastolo, che lui vuole abolire perché dice antiscientifico, il cervello cambia negli anni, quindi uno può essere in qualche modo recuperabile. Ci sono vari pareri su Facebook discordanti, alcuni che sono d'accordo con lui, molti invece che dicono insomma ci sono certi individui che non sono recuperabili. Io devo dire che non sono molto d'accordo. Fra l'altro in Italia credo siano una ristretta minoranza quelli che fanno l'ergastolo, anche quelli che stanno dentro 30 anni. Io mi chiedo, per esempio, un Parolisi, è vero che ci sarà il secondo grado, il terzo grado, eccetera, ma personaggi di questo tipo che uccidono con questa efferatezza, qualcuno anche tortura, smembra, io leggo agenzie di tutti i tipi, di dispacci, ne leggo di tutti i colori che agli ascoltatori e ai telespettatori non arrivano. Insomma, individui di questo tipo, io qualche anno sicuro, che tanto l'ergastolo non lo fa quasi nessuno, neanche i 30 anni, io li darei. Tu sei d'accordo con Veronesi invece su abolire l'ergastolo? Sinteticamente? Sì, si può anche fare, anche perché poi di fatto non lo fa nessuno. Fine pena mai è una parola... È terribile, sì, però so. Ti confesso, Roberta, che una domanda così fatta in chiusura di segmento è un po' troppo difficile. Io mi riservo di rispondere un'altra volta o dopo la pausa, se vuoi approfondire. No, parliamo come vuoi, però comunque sì, sono abbastanza d'accordo con Veronesi, però non è un argomento in cui si possa rispondere con un monosillabo o un monosillabo no. Io quando mi sono trovata di fronte a questa campagna di Umberto Veronesi ho detto è una battaglia di grande civiltà, però penso anche alle persone che non ci sono più, che hanno fatto una fine tremenda, e soprattutto ai loro parenti, che loro sì che ce l'hanno a vita l'ergastolo, è una vita che diventa praticamente un ergastolo. Andiamo sulla politica. Renzi ieri ha chiuso la Leopolda, ha chiuso in bellezza con l'assalto finale a Bersani, anzi oggi no, ancora dovrebbe esserci, adesso stavo guardando gli aggiornamenti. Ancora oggi infatti. E Berlusconi, che prima, fino a pochi giorni fa, voleva Monti come possibile candidato, ha detto ieri o l'altro ieri, un anno di tecnici è stato soltanto, ha portato dati disastrosi, e quindi adesso accelerano per le elezioni anticipate. Forse si è trovato questo accordo del 10 marzo per accorpare sia quelle regionali che riguardano Lombardia, Lazio e Molise, quelle proprio affogate negli scandali, e le politiche che ci dovevano essere più o meno ad aprile. Come lo vedi la situazione generale? Tra l'altro leggevo che sono scesi anche i consensi per il governo Monti, in particolare la Fornero non gode di particolare simpatia. Che ne pensi? Allora, penso che gli ultimi mesi del governo Monti non vadano sprecati e non si può litigare in questo modo. Penso che a Silvio Berlusconi fatico a credere, anche se mi dice l'ora esatta in questi tempi, perché ha detto tutto il contrario di tutti negli ultimi tempi, quindi è veramente dura. Creda che anche per lui sia tempo di dedicarsi ad altre attività e di lasciare spazio agli equivalenti nel PDL di Renzi e compagnia bella nel PD. Ma ti piace Alfano? Ti piace Alfano? Come possibile? Ma Alfano è uno dei tanti nominati da Berlusconi, è certamente una persona che ha dimostrato una maturità per la sua età e così via, un uomo di 42 anni. Ma gli anni, manca il quid, come diceva Berlusconi, è scappato una volta Berlusconi. Nel momento in cui tu vieni unto dal padre padrone del partito, sei già debole, secondo me. E Renzi ti piace? Allora, Matteo, se lo conosco da tempi non sospetti, l'ho chiamato per nome, ritengo questo, che se non fosse esistito Bersani avrebbe dovuto inventarlo, perché il PD ha guadagnato molto in questi mesi. È vero, è vero. Discutendo, lasciamo perdere, comunque la pensiamo, c'è stata una parvenza di normalità democratica, un partito, idee diverse, devono scegliere il candidato e discutono. La cosa di Sky TG24 è stata ammirevole. Confronto. Poi dopo lo conosco molto bene e posso dire che molte delle sue idee sono condivisibili, vediamo. Spero che il partito abbia il buon senso, chiunque vinca le primarie, di andare avanti. Ma ripeto, è quasi più importante adesso che venga dato spazio. Nel centrodestra ci sono persone come il sindaco di Pavia Cattaneo, la Beatrice Lorenzin, la europarlamentare Lara Comi. Ti faccio dei nomi a caso di persone che non vedono l'ora e sono pronti a fare un passo avanti e diventare loro. Il problema è che non glielo lasciano fare, perché i partiti sono stati privatizzati, sono legati a un nome, c'è il partito di Di Pietro, il partito di Fini, adesso il Movimento 4 Stelle di Grillo, è uguale, sono quattro, perché una gliel'ho levata da autorità, visto le espulsioni. Anche la guida Michelin gliel'ha levata tu, va bene, così lo aggiorniamo. Grillo, c'hai 4 stelle, te ne rimangono 4, vedi tu. Adesso Beppe, abbiamo questo appuntamento che non possiamo rimandare, eccoci qui con il nostro Don Severino da Potenza, che sinteticamente, con la sua capacità, ci dirà cosa ha colpito questa settimana tra le notizie. Don Severino, ciao Roberta, saluto tutti. E io dico semplicemente questo, che i nostri politici devono ringraziare che vivono in Italia, perché l'Italia non è un paese europeo. Per quanto riguarda il discorso delle manifestazioni, vorrei semplicemente ricordare che gli italiani e i politici dimenticano la storia. Ci siamo dimenticati come è finito il G8, chi è stato condannato, gli studenti o qualcun altro. Allora ricordiamoci sempre che i politici e alcuni opinionisti hanno paura dei giovani. La rivoluzione francese chi l'ha fatta? La rivoluzione a Cuba chi l'ha fatta? Ogni rivoluzione è fatta dai giovani e poi basta con questo discorso sulla violenza. Io indagherei quei giovani che vengono sempre accusati, che vanno con i manganelli, prendiamoli, scopriremo delle grosse novità, chi sono e chi non sono e chi li manda in piazza, perché non vengono mai ascoltati e messi alla berlina quelli che vengono accusati di essere violenti? Questa è la domanda. Beh, grazie. E questo è Don Severino. Invece adesso andiamo subito da Valeria Della Valle, la nostra linguista della Sapienza di Roma, alla quale ti chiedo sempre con capacità di sintesi, Valeria, questa parola austerità, austerity, dei nostri tempi, forse c'era anche forse negli anni 70, quando, da dove viene? Sì, certo, col senso attuale viene dagli anni 70, anche se la parola è antica, addirittura dobbiamo risalire al latino e poi dobbiamo risalire alla parola austero, però fino a una certa epoca questa parola austerità, una parola quindi tutta italiana, è stata usata con riferimento all'austerità dei costumi, all'austerità del comportamento. Poi dagli anni 70 per l'appunto, ricalcando il modello della lingua inglese, ecco che si è assunta la parola austerity con riferimento a quelle norme che cercavano di limitare intanto i consumi nel periodo della crisi petrolifera. Ecco, da quel momento in poi le due parole, quella tutta italiana austerità e la parola inglese, hanno continuato un po' a contendersi il campo, no? E quindi ecco che ancora oggi molti usano la parola austerità, altri la parola austerity. Ora, che cosa c'è contro la parola inglese? Non per mania di purismo o di nazionalismo, ma in realtà questa parola non la pronunciamo neanche bene, no? In genere si sente pronunciare come austerity. Ecco, che no, e non va bene. Allora, o la pronunciamo bene, oppure più semplicemente usiamo la parola tutta italiana austerità, benissimo, che va benissimo e che forse mette ancora un po' meno soggezione, fastidio nei cittadini di quanto sia una parola inutilmente straniera che non fa parte della nostra tradizione. Grazie Valeria Della Valle. E quindi come la pronunceresti tu, Beppe? Quindi austerity, tu che vai sempre in America, austerity? Che dici? Ma io non la pronuncio perché parlo in italiano. Ah, giusto, sono convinto che quando l'idea che noi per difendere la famiglia italiana, che peraltro sta meglio della famiglia anglosassone, inventassimo il Family Day, lo trovavo esilarante. Anch'io, molto esilarante. A Walter da Bologna chiedo perdono e di richiamare sabato prossimo perché siamo proprio alle strette. Ma per chiudere invece a te, Beppe, voglio dire questa ricerca dell'Harvard Kennedy School della Columbia University, secondo la quale ci sono dei costi finanziari della tristezza, perché più la gente triste più fa presa dall'ansia, rapidità nel prendere decisioni, spesso fa degli investimenti sbagliati, tutto diventa quindi un circolo vizioso, devo dire, in questi 20 secondi che mancano, perché già siamo tristi, depressi, quindi è tutto un cane che si morde la coda. Io non sono triste né depresso, io sono ottimista perché credo che questi ragazzi nella grandissima maggioranza siano per bene e ho provato, come ti dicevo nel libro che sono venuto Italiani di domani, a presentare oggi, a dargli dei consigli. È un libro ottimista, infatti i ragazzi che l'hanno letto, e sono molti, quando vado all'università. Grazie Beppe, stiamo proprio chiudendo. Beppe sarà a Piazza della Scala oggi alle 17, da Roberto Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.